l'Atalanta nel mondo significa il fuori meglio del fuori che c'è al mondo, il casino. L'Atalanta nel mondo significa figa, via, ultras Atalanta. La mia ritmo fa tutta gente che lavora, tutta la settimana ci facciamo due coglioni così e la domenica viene qua per rilassarci, sfogarci, guardare la squadra che abbiamo, giocare a pallone. Forza Atalanta! Siamo tutta gente che lavora, tutta la settimana ci facciamo due coglioni così e la domenica viene qua per rilassarci, sfogarci, guardare la squadra che abbiamo, giocare a pallone. È un altro mondo, figa, cioè una cosa. Sei lì libero, tra quando nessuno ti rompe il cazzo, tranquillità assoluta. A Bergamo la differenza delle altre città, che a Bergamo si dice vado all'Atalanta, non si dice vado allo stadio. L'Atalanta è la cultura della nostra città, figa. Perché comunque sarà sì che senza Atalanta assumendo il cazzo mi dà. A me le brigate mi hanno salvato da tante cose. In Cuba poi ci sono, c'è un'aggregazione talmente tale, prima c'erano 500 che cantavano, oggi sono 6.000 persone che cantano in curva, sono 1.000 compagnie, c'è tutta la provincia. Eri in fabbrica e quando uscivi dalla fabbrica la domenica era... era vivere in un altro mondo, cazzo. Il togliersi da quello che ci sta intorno è l'unica cosa per cui alla fine buona, ci lega come gruppo, ci lega l'amicizia del gruppo. Ha proprio un coinvolgimento che ti fa star bene, ti fa vivere bene in città, figa. Perché in città poi sul lavoro, al bar, cioè l'Atalanta sappiamo tutti, quando vince tu lavori bene in settimana, alla brutta dire, ma lei se, quando perde non puoi vedere nessuno. Nella trasferta quando noi saliamo sul pullman, ci ritroviamo sabato sera pronti a partire alle 2 di notte andare a Roma, saliamo sul pullman, siamo che siamo su un pullman di 50, 50 di noi. Thank you. prende la curva. Siamo noi, siete voi, siamo in tanti. Ci chiamano cattivi o anche violenti. Non confondeteci con pochi deficienti. Forza Totò, mitico Walter. Ammazza del principe come elegante. Le sirene spiegate che avevano accompagnato l'arrivo del pullman della Juventus, qualche tafferuglio, i lacrimogeni pronti ad essere lanciati, il tutto per un'atmosfera non certo di festa. All'ingresso in campo gli obiettivi e gli sguardi sono tutti per Baggio, mentre il suo è rivolto alla curva Fiesole, la sua curva, quella dei suoi amici Dimitri, Maurizio e gli altri del collettivo che avevano preparato uno spettacolo stupendo. Il profilo di Firenze colorato di viola e bianco, per Baggio e i suoi compagni solo fischi, tanti fischi al punto d'esserne condizionati. Salvatori lo segue come un'ombra, ma forse non ce n'è bisogno, visto che Roberto è la controfigura di se stesso. Le piange e dice non mi rispetti, e forse dal suo punto di vista ragione ha un po'. Cinque minuti le passa e tutta sorridente di ci andiamo allo stadio. C'è Fiorentina Juve e se ami tanto la violenza vedrai quanta ce n'è. Un episodio che potrebbe avere anche riflessi disciplinari sugli spalti. Un ciclomotore è prima esibito come trofeo di caccia e poi lanciato pericolosamente verso il basso. Ecco la scena. Un ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno fatto di tutto per evitare che le due tifoserie entrassero oggi in contatto. C'erano più di 6.000 sostenitori dell'Atalanta a San Siro. Ragazzo, tra Mi spiegate un po' cos'è il Cux? Sono pezzi di merda il Cux. Cos'è il Cux? Sono pezzi di merda, il comando ultra curva sud, però sono pezzi di merda. Cos'è? Il comando ultra curva sud. Sono tutti venduti a Roma. Sono tutti venduti. A Roma gli passa i striscioni e bandieri di tamburi. Noi c'emo niente, noi semi fedain, c'emo niente. Cioè fedain cosa vuol dire? Pezzi di fedain, siamo fedain. Ognuno lo interpreta come gli va. Fanno la politica, cazzo. Fanno la politica. Il comando fa la politica. Quelli. Fanno la politica quelli? Sì. Cioè? Mi spieghi che politica fanno? Ma fanno una politica tutta loro! È uno schifo! È un bravo con il sole! Forza Roma! Not that he's lying. non vedo l'ora che venga la domenica per andare allo stadio io. Ma che vai, un lavoro? Sì, sì, ho lavoro, io ne vorrei un bar. Però adesso sto facendo il militare. Vado sempre in giro vestito dall'Inter. Da quanti anni? Da sempre, da quando sono nato. Ancora quando ero in fascia avevo già la sciarpa al collo. Ma chi te l'ha data questa passione? Non so, Gesù. Dio me l'ha data. Dio ha voluto che diventavo interista. Il papà di questi signori qua. Sono bravi ragazzi, non fanno casino. L'importante, più che tifoso, è essere sportivi. Bisogna fare violenza e basta. Ma perché? Perché i romani sono bastardi e boom. Che lui è sempre stato un tipo pericoloso allo stadio, lui che porta coltelli. Ma è vero? Ogni tanto. Ma che ti serve? Dipende, perché tante volte si va in mezzo ai casini anche se non si vuole. Novembre ce l'ha insegnato, uccidere un romano non è un reato. Ma quando voi cantate queste canzoni, dite queste cose, ci credete veramente? Sì, veramente, le facciamo con, cioè, soprattutto con i romani. Con Romani e Napoli siamo quelli che odiamo di più. Le canzoni che facciamo le facciamo veramente con cuore. Perché noi quando andiamo a Roma ce le fanno con cuore. Sono i vecchietti che tirano le radioline, ti dico. Perciò che non ci lamentano quando noi andiamo a Roma e facciamo qualcosa. Noi siamo razzisti verso Roma e Napoli, mentre i romani, cantato lo stadio, Milano in fiamme, non sono razzisti. Questo in certo senso qua la stampa è infame nei nostri confronti, che sarà di Milano. Invece non esiste. Come questo, basta. Quando i tifosi del Napoli vanno a far casino, dicono tanto che sono i buoni, bravi dell'Italia, sono i più bravi, meritano tutto, la coppa, coppetta, però rubano catenine, quando vengono a Milano spaccano la bottiglia in faccia a un bambino di 14 anni, questo c'è scritto anche sul giornale. Ma secondo voi allora cosa si dovrebbe fare per tornare a far diventare il calcio un gioco, una passione, però non una cosa così pericolosa? Ma voi vorreste farlo ritornare com'è? Sinceramente, io non sono uno di quelli che... Io ho coraggio da ammetterlo, certe volte vado a fare casino a San Siro e ho coraggio da ammetterlo, magari con la tifoseria che odio vado a far casino, sono sincero, non sono come gli altri che magari dicono prima vanno a far casino e poi dietro le spalle dicono no, non faccio casino di qua di là. Però io dico una cosa, ormai per me siamo arrivati a un punto che non ce la farei mai a mettere a posto sto calcio, perché ognuno si odia uno con l'altro, ci sono i vari gemellaggi, vedi, noi col Verona andiamo d'accordissimo, oggi con Laziale andiamo d'accordissimo, infatti ho detto forse verranno già ad aiutarci qualcuno. E i laziali sono di Roma, vedi che noi non odiamo i romani, noi odiamo i tifosi della Roma, perché loro ci odiano noi, noi odiamo loro, loro ci odiano noi, noi odiamo loro, loro ci odiano noi, noi odiamo loro, loro ci odiano noi, noi odiamo loro. So uno strano animale, so un tipo eccezionale, so il re di quartiere, te tengo il potere. Se perdo la pazienza, mi scatta la violenza. Sul mio motfucone mi sento un leone e spatroneggio. I just love now, still free of Boscana now, be love too big for you. Io, fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale, ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fate migrare. Ma fortuna che ho un cervello eccezionale, veramente eccezionale, sì. Io mangio le orecchie di maccabiale, so il stesso di un maiale. Poco di capa, ma non fate emigrare. Poco di papà, ho dovuto emigrare. Inciso. Sto alla partita, io rischio la vita. Se mi piace una donna, ci sprano la gonna. Se per caso mi offendo, ti strappo via i denti. Sono vino, un T.U.M. Accendo, peccendo, a troneggio. This fuck my sense around, to down, up to down. I love a proxy to you. Io, fortuna che un cervello eccezionale, veramente eccezionale. Ma la gente mi ritiene un animale, un gran bell'animale. Potete campare, ma non fate migrare. Ma fortuna che un cervello eccezionale, veramente eccezionale. Yes, io mangio le orecchie di maccaviale, so il stesso di un maiale. Potete campare, ma non fate migrare. Certo, forse esagerato, d'altronde subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pitosh, di Joe Cocker, di Steve Wonder, di Snella Figgera. Cioè, cambiando discorso, cioè, io sono biondo, no? Cioè, tinto ma biondo. Cioè, il cavallo biondo. Ora, vivendo in periferia, c'è dentro l'Interland, può anche essere molto rischioso. Metti che zombo forte dietro un angolo under un cielo, cazzo. Ti zomba addosso, ma non ti spappola, ti fa pezzi. Cioè, è come essere un abbino ad Alem. Babbino? Intendo no, abbino con la penna. Abbino slavato, no? Scusa. Io, fortuna che un cervello eccezionale, ma la gente ha torto, mi ritiene un animale. A po' forza, potute campare, ho dovuto emigrare, dovevo pure mangiare, no? Cerchi sempre di rivalutare un discorso ultra sul lato scontro, quando Galeazzi dice al 90° minuto incidenti in San Benedettese Ascoli, derby marchigiano, prima, durante e dopo. C'è un ultra salbarfa a grandi, figa. Perché comunque ha portato avanti ancora una linea di condotta, ultras, ribelle, scontri. Mi sembra giusto pagare 40.000 lire, te? No. Quante volte hai pagato 40.000 lire? Beh, allora, ma sai quanta gente qua dice 40.000 lire paghiamo a Roma? Ma anche Ruggeri la fai beffa a pagare 40.000 lire, che allora, a Parma abbiamo pagato 40.000, la gente diceva, però al ritorno dobbiamo far pagare 40.000 per messa, una guerra tra poveri questa qua, figa, tra poverissimi. Con i prezzi che ci sono, io mi aspetterei che scavalchi la metà della gente che va dentro in curva. L'arma migliore qual è? La vecchia maniera, si prova a sfondare, se lo sfondamento dura per 40 persone, 40 persone non hanno pagato il biglietto, basta, beai lui. 700 persone non hanno pagato il biglietto perché era una cosa improntante, decisa in settimana. Dentro! Ultimi 10 minuti, urla, pietre, vandalismi di teppisti, lacrimogeni sparati dalla polizia, fischi al Napoli, applausi alla Roma che non vinceva al San Paolo da 11 anni. Delusa dalla nuova sconfitta, la folla si abbandona a violenze e distruzioni. Casarin fa proseguire per non gettare olio sul fuoco. Il seguito all'esterno del campo con cariche e caroselli di camionetti. Napoli, Napoli, Forza Napoli, Napoli. Dopo una notte agitata, agitatissima, soprattutto come al solito nella zona del porto, la situazione a Cagliari sembrava in giornata tranquilla, con i tifosi inglesi insieme agli olandesi a prendere il sole e a parlare finalmente di calcio. Poi d'improvviso una scintilla, forse provocata da un eccesso di alcol, forse anche stavolta da qualche teppista locale. Queste immagini sono di poco fa, un'ora prima della partita. Siamo fuori lo stadio Sant'Elia. C'è una carica degli agenti, tafferugli, bottiglie che volano. Due auto, come vedete, sono danneggiate. Si sente un colpo in aria. Un agente ha sparato a scopo intimidatorio. Elicotteri volteggiano sopra le nostre teste. C'è paura soprattutto per stanotte, specie se una delle due squadre dovesse perdere. L'apparato di sicurezza è gigantesco. Si calcola che c'è un agente ogni due tifosi, ma qualche incidente, lo vedete, comunque avviene. Per fortuna per ora non particolarmente grave. Si cercano di isolare fisicamente gli inglesi dagli olandesi, incanalandoli in due settori diversi dello stadio. Gli hooligans britannici nella curva sud, gli arancioni nella nord. Questa dunque è l'immediata vigilia di un appuntamento che dovrebbe essere sportivo. Visto lo stato d'assedio, l'angoscia della notte che sta per arrivare non sembra davvero. Questa notte è sfociata purtroppo pochi minuti fa in violenti scontri nei pressi dello stadio Sant'Elia. Queste le immagini degli incidenti fra polizia, tifosi inglesi e olandesi ed alcuni italiani. La scintilla è scoppiata improvvisa mentre centinaia di persone si intrattenevano in canti e cori poco prima di avviarsi allo stadio. La polizia e i carabinieri hanno caricato ripetutamente i facinorosi, riuscendo infine a disperderli. Certamente un pessimo prologo per una partita Olanda-Inghilterra che si preannunciava già a rischio. Fino al momento degli scontri nulla aveva fatto presagire i disordini. Il tifo pittoresco degli olandesi aveva divertito cagliaritani ed inglesi. L'ottimismo regnava e, come ci aveva detto il capo dell'unità olandese anti-hooligans, le misure di sicurezza della polizia italiana sembravano tali da garantire una giornata tranquilla. Comunque, aveva aggiunto, non sono mai gli olandesi a provocare gli scontri. Ciò che però desta qualche preoccupazione è l'andamento della vendita dei biglietti, che non si è purtroppo svolto come programmato. Acquisti all'estero e mercato nero rendono così concreto il rischio che tifosi inglesi ed olandesi possano trovarsi gomito a gomito all'interno dello stadio, innescando pericolose scintille. Ma le forze dell'ordine vigilano massicce sia a terra che dal cielo e lo stadio Sant'Elia è stato occupato nei punti strategici fin dal primo pomeriggio. Chi ha brutte intenzioni, insomma, avrà poche possibilità di farla franca. L'elicottero della polizia, dove ci troviamo, è dotato di apparecchiature fotografiche e televisive. Eventuali incidenti, anche al di fuori dello stadio, potranno venire segnalati con grande tempestività e i responsabili identificati. Dentro e fuori lo stadio, le forze dell'ordine si contano più a migliaia che a centinaia. Sembra assurdo, d'accordo, ma la miscela di entusiasmo sportivo e di violenza che caratterizza questo mondiale rappresenta emblematicamente tutte le contraddizioni di questa nostra civiltà. Dico tifoso che direi allo stadio con quegli occhi iniettati di gioia. Quanti gol morte la concluderebbe. Ah, la morte ha pronto già il tuo cartellino nero, ma tu gol. Oh, oh, oh, oh, gol. Oh, oh, oh, gol. Amico hooligano coi capelli un po' corti, così uomo e così bambino. Combini tanti guai, non ti fermi proprio mai, un diavoletto biondo sei. L'amico poliziotto ti aspetta, ti invita sulla camionetta, non respingere la sua carica di simpatia. Un balzo, sali a bordo e via. Mano che stringeva il manganello, ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore gol. Fischio, partiti, mentre ora subito scoppiano dei tafferugli sulla curva alla nostra destra, nulla di particolarmente grave, seguiamo, speriamo di poterlo fare per l'intero arco della partita e lo svolgimento del gioco. C'è il lancio in profondità, arresta Lesso e ribatte lungo, recuperato. Si devono impegnare molto, c'è veramente una certa bagarra adesso. E lo fanno con molto impegno, come vedete. Calcio di punizione intanto a favore difensore centrale, mentre qui a tempo il risultato è di 0-0. Ancora continuano i tafferugli, Wright non riesce a controllare il pallone. Vedete, si fronteggiano le forze dell'ordine italiane e Nesta, nostra nazionale. Può dire dall'inizio della partita. Intanto si continua a giocare. La palla è per Inzaghi, che viene messo, un agente ferito, viene portato via in... Sono due feriti, un sostenitore inglese e un rappresentante delle forze dell'ordine, un poliziotto che è quello che ha avuto la peggio, nulla di gravissimo comunque, ma si sono vissuti veramente attimi di grande tensione e mi dicevano qui alcuni poliziotti che sembrano veramente... quasi tutti in stato d'ebbrezza i tifosi inglesi, e questo ovviamente rende le cose più complicate e difficili. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning. A reason for living, a deeper meaning, yeah. I wanna stand with you on a mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. And when the stars are shining bright, sky, I'll make a wish, send it to heaven, then make you wanna cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the highest.